lo facevo anche da prima io. Alfaro, Sara, Sara. Vedi, ha ammazzato tutta la piedi dalla spiaggia di Marinella, tutta la parte interna, sino praticamente sino al faro, capito? Poi granchi. Avevo granchi e bimbi, però li ho presi tutti a granchi. Franco. Vedi, amiche, dimmi. A mezzo di segnali si è migliorato che mi ho sostituito l'antenna. Guarda, sì, qua stai arrivando 9:40, Natalì. Prima come arrivavo? 9:20. E quindi ti ha accettato il miglioramento, così è. 9:40 stai arrivando qua. Non so come sto arrivando io, perché era un po' di tempo ferma questa radio, capito? Amate Sicilia è, fra Amate Sicilia, già combatta, già anche Gianni mi arriva con un segnalone qua, perché ho sostituito l'antenna, me l'ho tolta, quella turbo perché, perfetto, oltre che la massa, è diventata tutta rugginosa, insomma, allora ne ha giù 40, ma ci buccio la manto qua a 5, e ce l'ho messa su un palo da 12 metri. Benissimo, dai. Comunque si è fatto un break, avanti il break una buonasera. Buonasera Franco, ben sentito dopo tanto, Falchetto da questa parte. Ciao Falche, buonasera, ogni tanto mi faccio sentire, dai. Stavo spazzolando e sono entrato a salutarvi, stavo facendo roba col computer. Ciao Padeoce, saluto da te e come vera familiare, dai, riprendi e fai girare. Ok, dai, contro ha cambiato tutto la barderia anche a te in famiglia. Ok, rilanciamo il microfono a Gianni, vai Gianni. Ehi, ciao Falchetto, mi sento anche a te, dai. Mi sta volendo la moglie ad andare a pescare, Franco, non sono andato, non so nemmeno dove andare. Se andare nel solito posto mio oppure oppure anche manciare la vecchina. Guarda, lì al Molo Catania, sei bello, questo l'ho dato io. Non ti rompo le scatole nessuno e si pesca bene già. Io ne ho preso 4 e 2 le ho perse. 2 le ho perse perché mi hanno tracciato tutto. Ma non vorrei dire rompere in chi verrà. No, ma lo devi lanciare, dove c'è il canalone, dove passa il canale, lanci a destra tu dal canale, capito? Se butti nel canale lì è tutto ruccia. Io andavo alla prima curva e le toglievo sempre. Alla prima curva lì Molo Catania, mi ricordo, parlo di 10 anni fa, anche di più forse. Ogni volta che andavo le portavo 3 o 4. Ma lo sai cos'è già? Che lì nella curva ho provato, ma c'è troppa mondezza, capito? Troppe anghie, quindi quando tu lanci e metti la lente in tira, come recupero il soffio e paglia Maria. E lì è come hanno fatto i lavori, arrivi usurando tanto, ma è forza. Tu se vai dove vado io, a Fuzzintini, che è bella, una più bella dell'altra, la più piccola è 1,5 kg, l'altra è a livello di 2,5 kg, 3 kg, una 3 kg, 7,50 kg, ce li ho in freezer me. Oh. Ma me ne ho messo in freezer già, qua non è che ne mangiano pesce. Ma è un peccato però, fra, sarebbe bello prenderle e mangiarle su. Già, la sera magna, lui, io e mia moglie, onorata, ma per carità. Io ho fatto che ho messo in freezer, capito? Adesso, domenica ci riguardo qui, in quanto sto qui. Ho coperto un bel posto, in uso. Ci va poca gente, già, perché non è lontana, ha fatto tutto a piedi. Tu figurati, io sono andato con, mi ho portato due canne da lancio, una sacchetta tra colla e coppa e blu, e una busta. Carrellino ci vuole fare, un carrellino è fatto io. Allora all'interno del Molo Catania non ci puoi entrare perché ci sono le guardie, devi passare praticamente da dietro la rete e devi fare tutto quel pezzo da dietro la rete fino alla punta. Dopo una volta che arrivi alla curva puoi saltare e passare nel pezzo dove è asfaltato praticamente, capito? Ah, dove ci sono i massi? Massi, da Marinella, la spiaggia di Marinella, da cui altri dei massi, così. Cade un travagliaccio, è già, però ne vale la pena. qua ci vorrà una mezz'oretta di strada a piedi arrivare. Ah, poi quando c'è un pesce come è fatto? Tutti i 5 kg di pesce. Guarda, lì ti sto dicendo che io come sono arrivato, la prima mattina ho lanciato due canne, come ho lanciato, neanche una decina di minuti è partita subito. Stavo recuperando l'altra, con panna è partita la seconda canna da pesca, capito? E via dicendo. E ne ho perso, ti sto dicendo, ne ho perso due, bella lo stesso. Anche perché ero da solo, capito? Mi veniva male a coppare. Mi sta facendo bene la Puglia. Ci vogliono quei granchetti piccolini di pescheria, ne compri due, io ne ho preso 3 euro lì al mercato, femminella, piccoli piccoli, micidiali, 2 ami, ami non molto grossi, ami da 6, da 8 vanno benissimo. E quelli di fiume, e quelli verdi? Ma di 15 avevo già, e allora? E vanno bene. Ma io mi sono da giubilati io. Io di solito uso i faraoni. Ah, mi prova quei granchi e poi mi dà la risposta. Ecco. Avanti Giuseppe, tu la pesca sei ancora non c'è. Perché? Primo vedrai senza nessun problema Gianni. E buonasera a tutti, tutto diciamo il circondario degli amici che sono in frequenza, Giuseppe da questa parte, già io non so manco che ci sia. Ciao Giuseppe, ben sentito di nuovo. Allora Franco, California, Natalino, io. Falche. Perché? Vanno. Buonasera, saluto i circolari. Questo è Daniele, buonasera anche a Daniele. Giuseppe, buonasera, comunque saluto anche da parte mia. Ciao Daniele, ben entrato. K di positivo, bra. Buonasera, ben sentito. Falchetto altrettanto a te, carissimo. Natalino, una stretta di mano come sempre. Ciao Daniele, avanti Natalino, dai. Buonasera a tutti quanti, là, no problem. Il primo diciamo a 2000 di a 70 ragazzi subito a Bosa, va, fa un guarda, per regolare questa antenna, se no ogni canale mi tocca a Cugliani. Non l'hai accordata Natalia quando l'hai piantata? È troppo pesante quel palo, non ce la faccio da solo, là. Ed è un macello. Sì, io l'ho messa al segno che c'era, però c'è stazionari e quindi vuole messa come se avevo la mantella a turbo per non avere stazionari, hai capito? Oh, c'hai, guarda, non è che ti voglio dire, ciao, segnalo, è 9.40, no, che si arriva, non la bomba, che... E quanto ti sto arrivando su? Uguale, sto arrivando fortissimo qua, perché ho salito il palo, è un palo d'acqua a 2 sezioni, da 6 metri. Però da solo non ce la faccio a tirarlo su, tornami, capito la cosa del discorso. È un pesante, perché mi sono 2 antenne sopra, c'è una multibanda di quella a discone e più la manto a 5. Piazza, e quando sei salito in altezza, com'è? Bella clara la vedi, non ti ringrazio. La dovevi provare su, hai detto che la provavo e tu non l'hai provata. Se lo metti un baracchino su con uno spezzone e provato. Ehi, aggiungi pure il mio baracchino, mi dico un metro, io sempre faccio un metro. Ma poi uno sotto a metà di stazionare, si andava da così e si alza sopra. Tanto devo regolare anche la multibanda. Questo è vero, è più difficile perché la sono nel vano. Quello che volevo affatto prendere sul tetto, prima che mi sono alzato, provavi se c'era un stazionario, se la regolavi e poi la sollevavi quando l'eliminavi. Ehi, oh cacchio, io pensavo che io mi sono pirato di quel segno rosso, ma quello lì anche a me mi sembrava troppo pressata la cosa, la molla. E poi devo regolare anche la multa, basta abbassarlo, se tu bulloni, capi di bullone si mi guarda il ballo. Se lui ha tazzito da voi, di ne fare la mazza che è un bel pesante. Ecco. Cappa. Ci va ricordando che ti torna al computer. voglio vedere. Già la stiamo mandando, aspetta, lasciami fare una. Cioè, tu cosa che cosa è Barendi, mica? Mamma mia, io lo temo quando fa così a fra. Guardi, Falchetto. Falchetto, lo riprende. Giuseppe. Io già sono qui già. E Falchetto si deve essere assentato, perché sono da quando sono entrato non l'ho sentito. Anto, ci sei? Ci sei. Ecco, per me, un attimo, che sto facendo cosa anche al computer. Cappa. Cava. E me già, tutto a posto? A posto. E io adesso sì, perché sono in orizzontale. Cappa, Calvo, tu sei nel tuo regno adesso, Sì, ero dritto. E la mia faccia è il letto, io lo chiamo amico letto. No, io se mi metto a modulare a letto due colpi importanti e subito addormentato. No, io due colpi importanti no, ma già mi concilia sono anche a me la verità, perché sono già stanco e quando ti trovi bello rilassato, ma è quello che deve fare, cioè è il suo dovere, rilassarsi. Ci vuole dopo una giornata di lavoro. Ma già è venerdì domani, dai. Poi invece è sabato, è tutto chiuso sabato, Sabato il primo maggio, ci sono le gare delle moto a Monaco, mi pare che si arriviamo un bricco e andiamo tutti quanti in greffa, vedi? All'autodromo. Scappa. Ho già un secondo che c'è Veronica per la buonanotte, se no non mi molla più. Mi molla più. Avanti, Veronica. Buonanotte. Ciao Veronica, buonanotte, sogni d'oro. Ciao signorina, buonanotte. Adesso è contenta? Giuseppe sicuramente la sta accompagnando a letto. Chi c'era? Chi è rimasto? Falchetto. Nazzarino. Poi chi c'era, che sto dimenticando? Sono in bianco io, un attimo. Io in verde. Eccomi qua. Ehi, andata se ne alle teste a girare in teologia con Andromeda. Lui, ma sei da poco fa, qua, sta distruggendo mezzo mondo. E si è portato dentro, guarda, 20 pupazzi. E poi sta lì, che è questo e quello, lì poi lo sa che non voglio che entri quando sono qua, perché delle volte si parla che si è tranquilli, però delle volte scappa qualcosina e non va bene. Va bene. Beh, infatti io ho sempre le cuffie, quando modulo anche di giorno, così almeno l'esterno non sente nulla. K. Ma io sono qui, dai, una volta che mi chiudo la porta, lo metto sottofondo musicale qui e va bene, perché tanto ci sono io e Giuseppe. Ma Veronica dorme lì nella cameretta dove c'è la baracca. E allora per forza deve entrare a curare. Se ne va a letto, non la disturbi col baracco. No, adesso è nel letto grande, perché lì si guarda la televisione, c'è tutti i teletubbies, io, tutta quella storia lì, e a canna drumi, non è per adesso a dormire Veronica, no? Toglielina, questo e quell'altro. No, Marco invece c'è l'abitudine di sua, lo stesso che viene qua, l'abito matrimoniale, si corica vicino a me, mi abbraccia, si addormenta così. E dopo tocca portarlo all'altro letto, non si digrubisce. E così è Veronica, però addormentarsi è terribile, delle volte le 11:30. Cappa. E anche Marco così. Manuela addirittura una volta eravamo in ferie d'estate, siamo andati a Porto Rotondo, noi eravamo a Casa Olbia lì. Siamo andati a Porto Rotondo, Portocervo, erano così le 4:20 di mattina, lì aveva degli occhi che sembravano sgranati. Ci credo. ci credo già, perché a me capita delle volte quando proprio non riesce a prendere sonno e mi appoggio io qua due minuti nel suo letto e molte volte è Lella che mi sveglia per fare il travaso, poi no. Ma io lo faccio camminare, ce la faccio più, lo prendo per le braccia e lo faccio camminare, cammina tipo robot, se non stai attento tra di tu e lui, però lo faccio camminare, c'è un altro letto oppure lo sistema. Sì, adesso vai, il tuo comincia ad essere già grandetto, quindi cavolo, ci vuole un pochino più di attenzione lì. E poi muti, tutta la di quindi è pesante, già va bene così, vuol dire che sono sani Gianni, va bene, no Giuseppe, quando è troppo. Adesso stiamo arrivando al punto di non comprare più le salsicce, le formaggio, perché lui apriva il frigorifero, si serviva, comprava la salsiccia, la sera arrivavo un mozzicone. Allora buona. Ma fette astronomiche. Sono una cosa allucinante, ha preso un po' al papà. A me la salsiccia e il formaggio mi piace da impazzire, perché si affumicata. Kappa, come ti capisco. Io ce l'ho in frigo, però pian pianino se la stanno mangiando gli altri, perché non li ho toccato ancora. Siamo arrivati già a 3 kg. Davvero? Ma non sono niente. Io ne sono 4, però in tanto tempo. No, io già sto mangiando, mi sto limitando in alcune cose, però ad esempio la pasta l'ho mangiata ieri ed ero 2 giorni che non ne mangiavo, però sto mangiando carne, pollo, pesce, insalata, insomma, non, però sempre nelle dovute maniere. La dieta si fa così, bisogna mangiare di tutto ma ridurre. Se tu ti mangi per dire 30 grammi di pasta e 30 di pane, stai ingerendo 60 grammi di carboidrati, 60 grammi non sono nulla, capito? Certo, se ti mangi due panini, la pasta, un piattone di pasta e cose, già li cambia. Comunque quelli che hai perso sono liquidi e Giuseppe, non ti illudere. Ma speriamo bene, ma tanto a me, se riesco ad arrivare a quel coso lì, di scendere quei 4-5 kg, per me va bene, va bene, perché, e poi te ne accorgi anche, anche durante il giorno, mi hai capito, ti senti meglio, dai. Ti senti uno spazio tutto attorno. Capo, uno spazio di fame tutto intorno. Magari vedi la gente al ristorante, passi davanti a una vetrina, oh, attacchi gli occhi, vedi la gente che si abbuta, aragosta, gamberoni, mamma mia. Magari passi davanti a qualche vetrina di ristorante, vedi quello, no? E tagliatelle a ragù, mezzo chilo nel piatto, a voi di quelle belle fiorentine che solo a guardarle, guarda, ti fanno venire appetito. Allora entri e gli fai, mica pinne saninocci, ma niente. Sai una cosa, non ho mai mangiato una fiorentina. No, manco io, però deve essere qualcosa di gustosissimo. Avanti, vela uno. Buonasera Pierpaolo, ben sentito e ben entrato. Ci sono ora qua, ascoltando. E questo segnalone? Che c'hai Pierpaolo? Stasera si nulla. Cava cava, ma non è che devo mettere le forze in campo anch'io, no? No. Stasera si nulla, capito? Si nulla alla grande sì. specchio sta già cominciando a tremare lì. Fallo tremare, che poi almeno va tutto tremolato a dormire. Fai un altro passaggio per fa che mi pare che stai arrivando a 9.40 qui. Io prima l'ho pagato con la posta, mi è convinto più di così. Comunque abbiamo fatto pagare un paio di spese di spedizione, 13 euro, a te quanto ti ha detto? Idem. Prima era 11, cavolo, adesso è 13. E poi questo qui ha lo stesso prezzo del tuo, eh? Tuo, eh? So. Quindi tra cose, spedizione è uguale? È uguale. Sì, sì, ci viene, avrebbe dovuto essere 150, invece 150 è 200. 200 che cosa? No Gianni, 144 mi pare viene. No, limone. Allora, costa 139, no? 140 e 150, sono 11 euro di spesa di spedizione, più 2 euro, sono 13. Ah, 152, no? 152, 200. E 152 volevo. Io quello hai pagato. Scappa. Ecco, e io quello mi metto in tasca. 152. Gappa, gappa. Sì, così ho pagato. Io pensavo 150 netto, invece 152. Comunque, la cosa è vera, che se paghi con la PostPay non ti fanno pagare spese di spedizione, ne paghi molto meno. Non vedo come fai. Vabbè, ecco da 9, 10, 11, 12, 13 sono 4 euro, dai. Lo so, da fastidio. Se fosse stata desiderata me l'avrebbero fatto molte volte, a me non me ne fa pagare, lo sai. Ecco, no, a me ha risposto lei questo pomeriggio. Vabbè, ma devi considerare che tutti i crediti che c'hanno qua a Sassari li ho tutti buscati io, i numeri di telefono li ho dati io. Pierpaolo è stato il secondo cliente perché gli ho fatto comprare BM1000. Pierpaolo è stato proprio il secondo. Io il primo, lui il secondo, poi tutti gli altri appresso. E il fatto che qui, come mercato qui a Sassari, facciamo schifo. C'è niente, quelli che ci sono spruzzini. E infatti, e non mi sono tentato a prendere l'altro coso, l'altro microfono, figurati. Un altro DM. E capa, poi ho detto, ma sì, dai, tanto già ci saranno altre occasioni, proprio per non caricarmi troppo. Beh, la sera io ho pensato la stessa cosa. E infatti, perché già che si stava ordinando la cosa, la gira, infatti poi però poi ho detto, ma sì, dai, prendiamo questo per adesso e poi si vedrà. Si vedrà, perché adesso bisogna continuare a fare come la formica, come dice qualcuno, si rimette qualcosina da parte e poi via, si rispende di nuovo. Allora, sì, io lo faccio. E mi sono sempre trovato bene. Capa, sai cosa ti dico già? Non è che, oddio, ce n'è gente che ha hobby e tutto quello che vuoi e non si fa mancare niente. Ma io dico questo, non fumo, non bevo, non ho vizio di bar, ma almeno qualcosa, qualche sfizio, qualche piccolo sfizio me lo posso togliere. Faccio finta che mi sono comprato, allora, 152 e fai che compri 30 pacchetti di sigarette. Beh, io purtroppo c'ho anche un po' di fumo. Però è solo quello vizio che c'ho. No, altri vizi. Non è come il fumo. Poi. Per il resto sono una persona seria. Cava. E lei, signor Vela, che dice? Voglio chiedere come un cinese, come un banca. Oh, ecco perché? giornale. Ah, io sento solo la qua, che c'è la soglia, al convinto che non c'è niente, non lo dico, è convinto, ragazzi. Ma il convinto sono di nuovo qua. Di positivo e per sabato rimaniamo come da programma Pierpa certamente come da programma ci vediamo sabato mattina e vediamo tutto Kappa, però non prima del caffè Pierpa prima del caffè io non tocco niente Kappa di positivo vengo io a prenderti comunque la verità si dica nel caffè, prima del caffè e del giornale pure no, che mi servono alcune cose che ho in macchina Kappa, come vuoi tu Pierpa, per me non c'è problema se vuoi essere io a comodità tua tu devi dire io devo fare no, vengo io che mi servono alcune cose che ho in macchina Kappa, non ci sta problema silenzio. E dimmi cosa ho detto, non ho capito, ripeti. Ho detto sabato non lavora nessuno. Perché non lavora nessuno? Cos'è il sabato? Ah, giusto, me ne stavo dimenticando, è il 1° maggio. Sabato è festa del travaglio. Gatta. No, perché io sono un bel apparato, tra giù e qua, me, per fortuna, così abbiamo finito, mi abbiamo piazzato il vetro, tutto fatto, e così ho ucciso la vetrata. Ah, avete fatto tutto, Mario? Gatta. Ah, di lusso allora. E adesso mi trasferisco, mi faccio il mobile per fuori e mi ci metto tutti gli apparati fuori nella veranda. E fai bene. E c'è anche più silenzio con quei vetri, vero Mario? Troppo di positivo. E non è che sono... Sì, sette sono... Andando alla Romario, che è così. Però il fatto lo sapete che cos'è? Che in un mese ci vuole tanto per portarti quei due soldi di stipendio a casa. Se non stai attento, Mario, arrivi al 15 del mese che di là non vieni più, perché il potere d'acquisto si è abbassato notevolmente. Non ti dico che si è dimezzato, ma quasi ci siamo, perché con quello che costa la roba e il potere d'acquisto che abbiamo noi in tasca, secondo me i conti non tornano per arrivare tranquillamente, cioè tranquillamente, degnamente a fine mese. Sì, ma già si sa, io già dal primo momento è durato un mese che ti mettevano il prezzo con l'equivalente in lire, quello, quell'altro, è durato un mese la pigliata per il culo, no? Poi direttamente l'euro e il paragone non c'era più, infatti il pane è passato subito da 3.000 lire a 3 euro. Senza tanti problemi, l'olio per la macchina costava 10 euro, cioè 10.000 lire, oggi costa 10 euro, se ti va bene pure, se no sono 11, 12, dipende dove entri. E così che ci hanno dato prima la caramellina per farci vedere che era tutto a posto, e poi ce l'hanno spinta, manco saliva ci hanno messo, guarda. Non sono di vaselina. Cappa. Occhietta. Figurati che io l'altro giorno mi stavo vendendo le ruote delle coso, le ruote della barra a uno zingaro. Le ruote della barra? Cappa, gli ho detto lì, ruote cerchi, ci mettiamo d'accordo. E via. Tanto se ne la mettenti, dici. Gli ho detto lì, per fare ferro. Questo qui sta in giro, no? Cercando sempre ferro, smontando, demolendo e cosa. E ha fatto, Dio ti senta. Non sono là, ti faccio presentare un cavolino. Cappa, Mario, ma se l'avevi appigliati dei gommi chi su? Sì, ma non ti dati tutti, no, se ne hai avvicinato una, brulla di scorta, abbiamo fatto subito vista, e tanto mi dice che cosa ne di gomme, non tanto un cerchio, ma di gomme. Cappa, Federico, il figlio, bene, io ti do quelle del furgone, io ho detto facciamo cambio, ho detto mettiamo quelle del furgone nel camion, e quelle del camion ho detto le mettiamo nel furgone, tanto, cazzo, fatti il conto, con quello che costano sono, allora, una gomma dovrebbe essere intorno ai 1.000-1.200 euro l'una. Sì, vabbè, io adesso non sono stato lì a precisare, ma a occhio e croce fallo a 1.000.000 l'una, perché poi c'è chi te le fa pagare qualcosa più, c'è chi te le fa pagare qualcosa meno, perché la concorrenza c'è anche lì, e poi dipende anche dove vai. Un pacco di soldi ci vogliono, sembra così, ma la schicciola, ma accade che gli altri ci sono illuminati bene gli occhi a quello, tu lo devi dire, Pierpa, dici, sì, si può fare, è un tipo di greppa quello zingaro, già è disponibile a tutto. E io lo credo, già, non c'è mai caso in questo vizio, già, cosa contatta da culo di molto meno, ma già cambiato io l'aria quel camion, è buco. Sì, buonanotte, mi sa che mi hanno dato un mio culo, le gomme. Oh, no, Pierpa, sono ancora quelle originali, quelle. Quanti chilometri possono arrivare a fare quelle gomme? Quelle gomme, se sono trattate bene, io penso che un 200.000 chilometri riesce a tirarle fuori. 200.000 chilometri, non sono mica... fanno quelle gomme. Le gomme. È vero che costano, costano. Però hai visto la pacchettatura che hanno? Sì, ho visto, ma stavo dicendo, un anno, 2 anni, e quanto lo fai quel chilometraggio lì? Quel chilometraggio lì riesci a farlo in 1 anno e mezzo, Pierpa. E ce la fai tranquillamente. Qua in Sardegna ti riesci a fare 200.000 chilometri. Beh, quando cominci a farne, guarda, solo l'altro giorno ho fatto 6,50, ho chiuso il coso, il tachigrafo digitale, e quello bugie non ne dice. Sono tanti, sono tanti, io pensavo che qua in Sardegna non si facessero cose. Tu vabbè, una volta non ero anticidio. A quel mezzo lì gli ho fatto fare il giro della Parigi da Carre, a tornare vicino. Dico, la bella lavorata e che era, diciamo, nuova, ricciata nuova, non le chiave, ma ancora ce l'aveva con la lavorata. Quel mezzo lì un Toyota, c'erano 37 km, quando gliel'ho restituita a fine dell'anno, aveva quasi 150.000 km. Sì, ma ci credo, Pierpa, ci credo, lo sai i chilometri come corrono, e se la dici, ma dice dove sono andato? Arrivo sì, ma la figliola quando stai camminando già segna. Ma comunque quel chilometraggio che hai detto qui in Sardegna non lo fai neanche se ti spari, perché le strade che ci abbiamo te le rovinano molto prima, perché siamo tutti a buchi, tutti a coso. Io guardo l'altro giorno, ho pigliato una buca, era piena d'acqua, stavo camminando, ero distratto con mio figlio, ho pigliato una buca e mi ha scorciato la pancia della gomma, all'atto mi più blu, ha trovato qualche punta di qualche cosa, blu, e ha aperto la gomma. Non durano quei chilometri che hai detto qui in Sardegna, abbiamo troppe strade mal messe. Però noi stiamo parlando durata di coso, essendo trattate bene, cioè arrivare al punto che una gomma la devi cambiare, non né per rottura né per bucatura e quelle cose lì. Gappa. Se c'è una strada buona già le fanno, ma qui in Sardegna per le strade che abbiamo si passano per prima. Beh certo, qui non è che siamo, per quanto riguarda la viabilità, la nostra non è un'isola felice, perché io mi sono accorto di essere ritornato in Sardegna quando sono sceso dalla nave a Porto Torres, che ho cominciato a scartare un fosso e ne prendevo 3, mentre su il continente è tutta un'altra cuba, cioè sì, ci saranno i cantieri aperti, tutto quello che vuoi, però le strade arrivate a un certo punto sembrano come un biliardo. Ecco, per il positivo, qui fanno i cantieri, non ti mettono manco in segnaletica. L'altro giorno qui vicino a casa, dietro, andando verso la chiesetta, si è parlato una macchina, si è attaccato un po' di zombino, si è parlato, mi ha sesso di la riga, per carità. No, poi ci abbiamo una manutenzione sulle strade, guarda, le facciamo solamente pietà. Infatti quando viene in continente lì si bisogna un po' rubare un guglia, che dice che siamo buona sassola dai bigli. Cappa Mario, è così. E quindi Gianni, se no ti drommi. Mi pare che ho tagliato un po' con gruppo, Gianni, mi pare che ci ha volato, Gianni. Ma hai già dormito? Ma non si è sentito Falchetto, Ma Falchetto poco fa c'era. Ho fatto in tempo a entrare io, a salutare, e poi non l'ho più sentito. E anche quello sarà tardi, se ti sarà dormito. La cosa più probabile. direbbe Mario. Mario. Sì? Sì, tanto mi, anch'io adesso non tardo andarmene a Ninna, tanto domani già è venerdì, il tutto è buttarci fuori domani, anche me, qua, lavoro per 3 giorni c'è domani, e credimi, non sappiamo manco da dove iniziare, abbiamo provato a iniziare stasera, però niente me a casa, più ne fai e più ce n'è da fare. Intanto tu che cosa puoi caricare lì adesso? 4 casse, così è. 8. Ah, 8 ce ne stanno. Cappa. No, perché credevo che erano più ingombranti. Oh, il peso c'è, non è che non ci sia. Cappa, pesano 22 quintali l'una e io carico 175. Io visto che sono passato lì, perché stavo andando lì da amico mio, e ho visto che c'era il camion tuo a muso in avanti verso dove c'è la lavorazione più che altro, non nel deposito, nel cortile grande. C'era il tuo e poi c'era anche quello vecchio bianco. Cappa di positivo. Cappa di positivo, quello era in consegna qui su Sassari e io sono rientrato da fuori, infatti l'ho messo lì perché c'erano dei clienti che dovevano caricare dal cappellone grande e poi prima di andare via l'ho portato direttamente dentro al chiuso. E così è Mario. Io sono passato così perché siccome mi aveva detto che forse ci avrebbe uno di quei così per attaccare la tenda scorrevole al soffitto, no? Di quelli che hanno le vetrine all'interno che scorrono molto bene. E invece sono andato ma non ne aveva e domani andremo da qualche cinese, lo troveremo uno di quelli lì. Sì, cappa, hai voglia Mario, e magari risparmi pure lì. Sì, vabbè, qualcosa già si risparmia, giuro che chi sa come si dice di andare a Sant'Esima, non è che mi viva tanto affidamento, Cappa, confermo al 100. Avanti vela! Oh, a Roma Chiesa purtroppo si sa, sono imitazioni. Yeah. secca, poi secondo il colpo che dà sembra di buttare anche in chiesina, invece quella lì gli metto 4-5 tassilli perché è lungo, è 4 metri e qualcosa, mi sembra che sia 4 metri e 10 in tutto. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. fare sul parlamento, sul portavoce. Attento, il presidente si suicidisce la serda e se assurti dice la serda che ti fa la chiamata brito. Thank you.